Cantare è un dolce piacere, ancor più bello se t'accompagni con la chitarra, e a chi rifugge la gazzarra gli va a pennello. La cantora si può presentare senza trucchi e senza finzioni, cantare la buona aurora come fanno gli uccelletti, o cantare gli angioletti come fa la Vergine Signora. Perciò, gentile pubblico, vengo a cantarvi dei canti ricolmi di così delicati versetti, quasi che fossero dei gioielli perfetti. Alcuni denunceranno i dolori, i malanni della nostra esistenza, altri, pieni di fede e speranza, chiederanno dei cambiamenti. E vado a incominciare dall'inizio, senza trascurare un sol dettaglio, e spero risulti ben chiaro quello che voglio raccontare. Può darsi che io non vi convinca con la mia povera ispirazione, ma inizio lo stesso la descrizione, senza fandonie né inganni, andando un po' indietro negli anni e cambiando abitazione.